Giovenale. Allora io vi leggerei da intruso, perché in realtà sono intruso, perché vi siete tutti poeti, io sono prosatore, vi leggo, forse Tommaso anche è un po' intruso. Due testi, allora uno che è sostanzialmente un testo di poetica poi alla fin fine, o comunque di descrizione di quello che faccio, che vuole funzionare da cappello introduttivo di quello che leggerò poi, ed è brevissimo e dice così, si intitola Sul gioco. E viene da questo libro che si intitola Oggettistica. È tutto molto chiaro. Si tratta di frasi. Faccio delle frasi. In letteratura spesso non ci sono frasi ma idee. E le frasi sono pervase di idee. Io non ho idee. Andata e ritorno. Sequenza degli intellettuali. Mi scusi quelli che l'hanno già ascoltato. È anche un po' anacronistico, perché in effetti sembra che ultimamente gli intellettuali siano tutti tornati. Vimeo è molto più pulito, anche se i crampi e l'intermittenza, ma queste sono cose del corpo che c'entra. Bisogna scommettere il giusto e sulla tecnica giusta. Un trucco è guardare i contorni, se non sfarfallano è meglio. Heidegger andava in Grecia, si sedeva composto, mangiava un panino, gli dava sicurezza. Si annuvola, mettono le plastiche sulle telecamere, rischierebbero altrimenti di bagnarsi. Non è una buona idea, manderanno comunque in onda il servizio. È un servizio in diretta, è stato lungamente annunciato, piove. Il servizio è già in odore di Pulitzer, il titolo del servizio, piove. Ah, quando c'era Pasolini, che rimpianto. Pasolini, gli intellettuali Pasolini, permangono degli intellettuali e si vedono o fanno dei film su Pasolini. Una soluzione come un'altra, una soluzione tira l'altra all'annoso problema che ogni stagione si ripresenta puntuale. Prendiamo un caffè, dicono. Prendiamo un caffè, con più slancio. Andiamo al caffè, prendono un'aranciata, due tranci di torta, lemon soda. Andiamo subito così, andiamo e grandi sorprese. Prendiamo un caffè negli anni 60, c'è Moravia, c'è Pasolini, entriamo nel vivo del dibattito, usiamo degli aggettivi, a volte terminano con istico. Entriamo nella, che dura di più, televisione, per criticarla da dentro. È per certo un intellettuale. Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, gli vanno e vengono come si vede. Mettiamo che un pomeriggio, come riservando, come a fiocco, uno abitava al 20 e di rimpetto al 19. Moravia ha una piccola rendita nelle biografie. Pasolini fa il film, per fortuna gli anni 70. Tuttora uno sta attento a capire bene che una strada poi tutti, che ci passano un po' tutti, e si stenta a capire. La situazione si è complicata dopo la tragica scomparsa degli intellettuali. Prima c'erano, poi improvvisamente, allora la prima cosa che ebbero pensato tutti è stata saranno scesi un momento, mo ritornano. Non ritornavano, le persone erano molto preoccupate, erano complicate, delle situazioni. Senza interpretazione alcuni si domandavano come faremo l'ascensore era fermo al piano, saranno andati a comprare il latte, i cerini, tipo una tabaccheria aveva finito, cerchiamone un'altra, adesso li rivedremo, manca poco, manca molto poco, eccoli invece, no, anche chiamando i carabinieri, ridevano sotto i baffi. Dove saranno finiti? Sono passati giorni, mesi, anni, ormai tutti si sono abituati alla scomparsa, ma all'inizio è stato difficile. Si andava al lavoro la mattina con della angoscia, che dire, che fare, non si sapeva come sfilare i bulloni dai cerchi, aprire le scale, vendere il merluzzo, era tutto bloccato. Un'intera nazione allo sbando, quasi la guerra civile, facevano delle multe, per fortuna esce Berlinguer, nel televisore dice due mattine, tre, cinque minuti, dice state calmi, è tutto sotto controllo, andrà tutto bene. Alla fine degli anni 70 sono entrati tutti, poi non è entrato nessuno. Non era vietato, ma non entravano più. È un po' anche colpa degli intellettuali. Quando gli intellettuali hanno capito, sono andati in gruppo. Prima in TV non c'era nessuno, due, tre presentatori, al massimo cinque. Poi hanno capito che potevano andare, sono andati. Prima la telecamera non li riusciva a prendere, all'improvviso sono entrati nell'inquadratura. All'improvviso non escono. Dove saranno? Dove saranno? Che disperazione. Guarda bene. Un giorno gli intellettuali torneranno, sarà tutto diverso, essi non venderanno più le penne come si racconta, erano indicibili orrori, facevano specie, la specie umana. Loro però torneranno uscendo dalla tasca, il loro ruolo finalmente lo avranno, riavranno come società, la società tira un sospiro, essa sorride, va in gita sui denti, ridenti, motoveicoli, si va al mare, a Ostia, a Fregene, tutte le mamme e balconi coi bimbi ridete nel mentre la primavera guariscono per sempre dalla rinite. Altrimenti dopo gli va in crack l'agenda, per allora sbagliano tasto, niente gita, o essi vorrebbero tornare alla ribalta con una invincibile rivalsa e si risarciscono, o il sole arride loro, vogliono riaversi e fare la vendetta delle ingiustizie subite, durante ciò interpretare la voce del popolo anche in sua assenza. Quadro, quadro, esclamano, c'è un attimo da aspettare che torni il tecnico, poi accadrà. Questo documentario è di grande interesse. Vedono un documentario sugli assiri, spiega come manufacevano i manufatti. Andavano svelti anche sui diritti umani. C'era una superficialità. Morivano come le mosche. Quest'altro libro invece più recente si intitola Prima dell'oggetto, in qualche modo effettivamente viene prima di, anche se è stato pubblicato dopo, di Oggettistica, è stato pubblicato dalla casa editrice De Click ed è qui sul tavolo, faccio il venditore di pentole. Dunque, leggo soltanto tre testi relativamente brevi. Fare un volo. Gonfiano l'areostato per farlo volare, fanno volare il loro fiato. Secondo loro tutti dovrebbero alzare il capo, meravigliati a vedere questa cosa. Vedi, quello lì che vola lì è il mio fiato. 11.65. Per un pezzo Venere nasce dalle acque, per un altro no. Non nel senso che nasca da qualche altra parte, ma proprio non le riesce, non si svincola. Poi la cosa va a seconda della tradizione, quindi per una parte arriva e si siede, ordina la carta, tutti la servono, contenti, emettendo suoni emotivi, ma per un altro verso, non essendosi svincolata, anche se le versano il caffè, non si sa come possa berlo, le manca una parte del viso e deve inserire la tazzina intera nel buio e addio. Era un così bel servizio, adesso ne mancherà una. Chiama il rappresentante. Questo è un testo lunghissimo che ovviamente io invece leggerò, essendo un testo installativo a cui cioè si può girare intorno, leggere frammenti e poi distrarsi. E il titolo è Affidiamo a questa dispensa il difficile compito di lasciare una traccia. Operammo nell'aspro e teso clima dell'immediato dopoguerra. Il costo delle pere era altissimo. Le chiavi della città furono donate su cuscini di seta a tutti i piloti di motociclismo. Alla cerimonia i sottosegretari piangevano come vitelli per la pioggia di denaro. Erano lacrime di felicità, di conversione, di vittoria, di un difficile connubio, di smalto, di istituti di polizia, di omologia, di larve di legno, di lavinia, di teseo, di ettore, di coccodrillo, di gendarmeria, di decisione, di soppressione, di concussione, di sparizione, di avvelenamento, di avvilimento, di soperchieria, di pornografia, di Roma, di stuoli, di assicurati, di speleologi, di cantanti, di sperma, di formiche, di massa in tumulto, di onestà, di principi, di cash, di pronuncia corretta, di costrizione morale, di contrizione morale, di costipazione, di fanciullezza, di terrore, di analogia, di matite, di poliuria, di sbadataggine, di tenisvolti, di Macerata, di Modena, di Missolungi, di San Fedista, di economia, di attenzione, di combattimento, d'acqua, di sale, di nobiltà, di aggregazione, di abnegazione, di Khrushchev, di assorbimento, di tuono, di San Francesco, di Santa Chiara, di artiglieria campale mobile, di puledrino, di comodino, di Kainz, di ottavina, di spartiacque, di comò, bandiera, di sbudellamento, di nuovo di murales, di macerie, di rottami, di spamento, di cattivo odore, ma poi improvvisamente di sacerdote, di cantiere, di gastrite, di massoterapia, di solista, di copacabana, di riordinamento, dei papiri, di bombacca, di tè alla pesca, di fitostimoline, di farmacia, di murales, di macerie, di rottami, di spavento, di siu, di ventata, di maggiolino, di muco, di audiovisive, di criogenizzazione, di candele, di di lamentela, di assenza, di rinuncia, di bidone, di bottone, di bassezza, di torero, di Gotham City, di re e regina, di soppiatto, di cantastorie, di elettricità, di portinaia, di verziere, di motel, di Mandelbrot, di tossici, di dipendenti, di Numa Pompilio, di Rutilio Namazziano. E poi tornò una ancora più serena lietezza. E chiudo la lettura con un testo che è uscito per adesso soltanto in rete, in uno spazio che si chiama Il cucchiaio nell'orecchio. Il titolo il testo è brevissimo, si intitola Il messaggio della stella. Fertile come una farmacia al centro di un centro commerciale, dove latte e miele e miniere lampo, anche gas per leni, 50 o 100.000 mangiati dai cani ai cani del SIN, non importa. Importante è più e più la riviera, autobiografie a base di Botti, l'Alturetta, Sderot, miele per leni e un canale. Su Fox fanno vedere uno che si taglia le unghie. La stella è su tutti i carri. Ha un messaggio. Grazie a Marco, giornale. Dove guardare la poesia oltre se spiegando? La prosa, non la poesia. Basta con questa poesia.